Do la parola al professore Branca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che anche lui ha da dirci delle cose molto interessanti sulle nuove tendenze appunto di alcuni musulmani per un rinfrescamento della tradizione musulmana. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi scuso se ho potuto provocare qualche disagio, dato che non ho potuto essere presente quando ero atteso, ma soltanto oggi. La mia comunicazione è molto breve e si propone semplicemente di riferire alcune riflessioni emerse durante la lettura di un libro che ha avuto anche notevole successo. Il libro è Dalila al Muslim al Hazin, 1984. E in particolare ho preso spunto da quel capitolo che raccoglie le osservazioni dell'autore circa lo sviluppo delle varie biografie del profeta Muhammad dal sorgere dell'Islam ai giorni nostri. Il fatto che l'autore sia un personaggio di rilievo della cultura egiziana contemporanea non fa che aumentare l'interesse per l'argomento da lui affrontato, già di per sé degno della massima attenzione. In una prospettiva di dialogo tra culture e tra tradizioni religiose differenti, credo che sia di grande importanza la presa di coscienza di come ciascuno guarda e legge il periodo delle proprie origini. Quali siano i temi, quali siano i tagli che predilige nell'affrontare il discorso delle origini, perché questo è un momento chiave per ogni ulteriore interpretazione, un paradigma costante in cui rintracciare le idee su quello che si è o comunque su quello che si ritiene di essere chiamati a diventare, in una prospettiva che garantisca quindi contemporaneamente la fedeltà al passato e la capacità di progredire, di evolversi, di svilupparsi nella giusta direzione. Quindi il discorso sulle origini è estremamente delicato e osservarlo ci permette di capire come ognuno si concepisce nella progressione della storia, nel rapporto col proprio passato e con il proprio destino in avvenire. Quest'ultimo rilievo quindi ci consente di apprezzare i differenti livelli che sono presenti nella lettura del proprio passato. Da una parte quel livello che è più aderente alla storia e che serve come un quadro di riferimento comune, ma dall'altra anche tutto un livello di tipo mitico, se vogliamo, paradigmatico, che risponde a esigenze che lentamente nel tempo si trasformano e che quindi sono indicative di un'evoluzione, di una trasformazione, di un rinnovamento. In più, se il discorso delle origini è importante in qualsiasi tradizione religiosa, nell'Islam mi sembra che rivesta una pregnanza del tutto particolare. Innanzitutto perché la civiltà arabo-islamica mantiene con il proprio passato, in tutte le sue espressioni, principalmente in quella religiosa, ma anche in quella culturale, letteraria e artistica, un rapporto privilegiato, un rapporto particolare, in cui la tradizione rimane un modello normativo, un modello di confronto imprescindibile, un punto di riferimento da cui non si può sganciarsi, spesso un modello ritenuto insuperato o addirittura insuperabile. E nel modo più ampio, ricordo per esempio il modello della poesia, come sia rimasto fedele alla tradizione pre-islamica, addirittura nei suoi canoni e nelle sue forme, fino a tempi recentissimi. I primi movimenti di poesia libera sono veramente dei nostri giorni. Quindi da un lato c'è questo grande fascino e questo grande rapporto privilegiato col passato, che forse per noi, con una sensibilità occidentale moderna, non è apprezzabile immediatamente, che va tenuto in debito conto. Dall'altra parte l'interesse ancora sul discorso delle origini viene rinfocolato, viene sottolineato da una tendenza che pare generalizzata oggi, o che forse è quella che si fa più sentire all'interno dei paesi musulmani, che è quella di un revival, se vogliamo così dire, della riproposizione del messaggio tradizionale non soltanto nello suo nocciolo, nel suo contenuto, ma anche e spesso nelle sue forme, così come nella storia e soprattutto nella storia delle origini si è manifestato. La tendenza ad attribuire a un solo momento e a un solo personaggio la funzione e il merito di aver formulato e applicato un modello di riferimento nella sua interezza e perfezione, ignorando le tappe intermedie di una graduale formazione e maturazione, non è certo una caratteristica soltanto della cultura arabo-islamica, ma per quei punti che abbiamo appena ricordato, per una tradizione da cui tutto viene tratto e a cui tutto viene riferito, nell'ambito musulmano sembra avere una pregnanza particolare, soprattutto in questo periodo in cui è faticosamente, delicatamente in atto una ricerca di equilibrio tra esigenze che spingono al cambiamento, al rinnovamento, ma insieme ad esigenze altrettanto forti di fedeltà alla propria identità, alla propria tradizione. Notiamo per inciso che le analogie tra differenti tradizioni religiose valgono fino a un certo punto. Ci sono come dei grandi modelli, delle grandi idee guida che si possono ritrovare in tradizioni differenti, ma che ben studiate, ben osservate, rivelano non soltanto delle analogie, ma anche delle differenze profonde. Mi ha sempre colpito considerare come l'idea di una origine di tempo, delle origini perfetto, che può rimandare un po' all'idea dell'Eden nella nostra tradizione, sia profondamente diversa dall'idea delle origini che invece è quella sentita comunemente da parte dei musulmani. Per noi forse si tratta di più di una di qualcosa che sta al di là della storia, a cui tendere continuamente ma non raggiungibile al 100%. Per i musulmani si tratta più di quello che ha definito Louis Gardet l'ideale storico concreto, il riferimento alla comunità dei primi, alla Mecca ma soprattutto a Medina, che avrebbero realizzato lo Stato e la comunità islamica perfetta a cui rifarsi, quindi un modello più stringente con cui costantemente fare paragone. L'attenzione rivolta da Hussein Ahmad Amin all'evoluzione che ha interessato nel corso dei secoli un tema importante come la lettura e l'interpretazione della vita del profeta è già di per sé una testimonianza di un fatto positivo che ci fa superare l'idea che spesso abbiamo, che riceviamo quasi inconsapevolmente, di una cultura monolitica e statica che invece ha saputo sviluppare delle diversità, delle differenze che pur attraverso alcune linee costanti comunque investono questo tipo di operazione che non è neutra per sua natura la lettura del passato, ma che varia a seconda delle circostanze e non può essere mai effettuata una volta per tutte. La coscienza dei condizionamenti della storia ha già prodotto nella civiltà arabo-islamica delle verifiche di grande portata. Può ricordare la grande raccolta delle tradizioni autentiche o, per parlare di esempi più recenti, all'intervento di Taha Hussein sull'autenticità della poesia preislamica. Quest'ultimo argomento invece di cui ci occupiamo oggi, queste osservazioni sulla sira, sulla biografia del profeta, non hanno naturalmente la portata degli esempi che ora ho richiamato, ma può essere interessanti perché può dare qualche indicazione su dei possibili ulteriori sviluppi, e sarò lieto se con me nel dibattito valuterete con le vostre osservazioni le possibili novità che ci possono essere in osservazioni di questo genere. Ci sono comunque dei problemi, dei fattori che costituiscono una complicazione nell'affrontare questo argomento, che non vanno dimenticati. Spesso, di fronte alle posizioni assunte da intellettuali e scrittori musulmani, si è nell'imbarazzo perché non si sa valutare la portata di queste posizioni, di queste singole prese di posizione. La mancanza, cioè, nell'Islam di un'unica autorità che possa determinare quali sono gli atteggiamenti più generali da considerare fedeli all'Islam e che si possa porre come interprete autorevole di queste credenze è sicuramente una difficoltà per chi si vuole porre in dialogo. E da parte nostra il massimo sforzo di buona volontà è quello di non scoraggiarsi, ma di mettersi e di accettare questa prospettiva come una prospettiva delle esigenze dell'altro nella logica non semplice del altri semina e altri raccoglie. Il legame profondo tra l'Islam e la vicenda storica di Muhammad ha come sua prima e più profonda manifestazione l'imbastirsi della rivelazione coranica sull'avventura terrena del profeta. A volte è stata fatta notare la coincidenza tra gli avvenimenti della vita di Muhammad e la rivelazione coranica con una vena un po' polemica, come una rivelazione che venisse a risolvere di volta in volta le difficoltà. Ma più profondamente di questo, questo imbastirsi della rivelazione sulla vita del profeta rivela che il discorso divino trova in lui un interlocutore privilegiato, un tramite indispensabile verso il popolo chiamato alla fede, e lo costituisce come un modello di relazione tra Dio e gli uomini. Per dirla con Muhammad Arkun, il solido equilibrio tra esperienza religiosa e azione storica, l'omogeneità del dire e del vivere, rendono paradigmatica la vicenda umana del profeta e le fanno acquistare un peso che va ben oltre i limiti di una reverenza devozionale. In questo senso, quindi, non stupisce che nel testo sacro manchi una sistematica esposizione della biografia del profeta. Gli accenni, anzi, sembrano scarseggiare. Ma si tratta di un discorso che viene assimilato in un afflato allusivo evocatore che risponde a esigenze diverse che non quelle di una storiografia e di una esposizione sistematica. È significativo invece che il materiale più abbondante che abbiamo relativo al profeta è all'interno dei detti e dei fatti del profeta, all'interno della tradizione, queste raccolte che sono nate però sulla scorta di esigenze più pratiche che teoriche, più giuridiche, se vogliamo, che teologiche. L'analisi di Hossein Ahmad Amin circa le biografie del profeta parte notando che nell'indagine storica, nel migliore dei casi, si trova non solo, e nel peggiore non tanto, quello che c'è, ma quello che si cerca. Le varie redazioni della biografia del profeta avrebbero quindi assolto a funzioni diverse a seconda degli scopi, degli estensori e del momento in cui hanno visto la luce. Significativamente il capitolo consacrato a questo argomento si apre con la citazione di un hadith nel quale Muhammad invita i propri seguaci a non magnificarlo come i cristiani invece fanno con Gesù, ma a considerarlo piuttosto come un servo e un inviato di Dio. Di qui l'autore prende l'avvio per criticare, fare una certa critica piuttosto stretta delle varie redazioni della vita del profeta. Soltanto le opere dei primi, a suo parere, si sono distinte dalle successive per il loro alto grado di obiettività. Le preferenze dei singoli o l'appartenenza a una determinata corrente hanno avuto sempre un certo peso, ma negli scritti più antichi l'adesione alla realtà dei fatti era prevalente, proprio perché cercava di leggere nella storia così com'era una manifestazione della volontà divina. Lo stesso rispetto che si aveva per il testo sacro, per i detti del profeta, si era, secondo l'autore, trasferito anche nella stesura della biografia del profeta, e questa devozione avrebbe garantito un autentico spirito scientifico. Le prime biografie di Muhammad quindi si mantennero in questa linea, senza nulla nascondere, senza nulla aggiungere, tese unicamente a fornire il ritratto fedele del profeta e offrirlo a quanti lo volevano conoscere e imitare. Tant'è vero, dice l'autore, che ci sono degli episodi riportati non consoni alla tradizione, o addirittura certi episodi non si sa bene perché sono stati riferiti, i motivi non sono chiari, anche quelli sfavorevoli, diciamo così, al profeta. L'entrata dei mawali, cioè dei nuovi acquisti della fede musulmana appartenenti ad altre tradizioni religiose, l'entrata di loro nelle scienze religiose col peso delle loro tradizioni e dei loro gusti, l'inasprirsi della polemica contro gli ebrei e contro i cristiani, le divisioni interne alla comunità islamica avrebbero alterato questo spirito genuino. Gli sciiti hanno inventato episodi favorevoli a Ali, i mawali a Salman, gli abbasidi ad Abbas e contrari a Abu Sufyan contro funzione anti-Omayyade, contro il califfato Omayyade. Da questo punto, secondo Hossein Ahmad Amin, lo stile che aveva caratterizzato le opere quali la Sira di Ibn Ishaq, il Kitab al-Maghazi di al-Waqidi, il Kitab al-Tabaqat di Ibn Sa'd, e che avrebbe avuto il merito di seguire anche la storia di Tabari più tarda, si sarebbero concluse, la loro obiettività sarebbe stata perduta. Successivamente all'autentica figura del profeta sarebbe stata sostituita una immagine agiografica che al nucleo originario aggiungeva particolari avvenimenti miracolosi di cui prima non si sentiva la mancanza. Il peggio però, secondo il nostro autore, doveva ancora venire. E molto acutamente Hossein Ahmad Amin critica soprattutto le ultime riletture della vita del profeta e dell'Islam che sono state fatte, diciamo da un secolo a questa parte, sotto l'influenza dei valori importati acriticamente dall'Occidente. Molti si sono sforzati di dare una visione dell'Islam che non è più quella originale, ma che tende a dimostrare apologeticamente che l'Islam è consono a certi valori che oggi vanno per la maggiore, presi per buoni senza discussione, come la modernità, il progresso, la scienza, la democrazia, il socialismo, eccetera, eccetera. L'autore non contesta i singoli punti, cioè quello che gli interessa non è dire che invece l'Islam non è consono alla democrazia, al socialismo o alla scienza, ma acutamente mette in dubbio la validità di un'operazione di questo tipo, che è un po' la sbornia del modernismo musulmano, non direi più recente, forse quello ancora di qualche decennio fa, che è, in effetti ha in sé un grosso rischio, che è quello di confondere, perché ad ogni nuova moda culturale, ad ogni nuovo esempio acculturante, si cambiano diciamo così, le carte in tavola, e non fa sicuramente un buon servizio né per i fedeli che rimangono disorientati, né per il dialogo tra le culture e le tradizioni religiose, che devono essere libere da complessi per poter utilmente incontrarsi. Anche le opere occidentali che sono state scritte superando le vecchie polemiche, il vecchio spirito denigratorio, non sono però viste da Hossein Ahmad Amin con grande favore, perché spesso sottolinea, e soprattutto per quelle nate in epoca razionalista, il loro valore strumentale, erano scritte soprattutto in funzione anti-ecclesiastica, e spesso quelle più recenti invece gli sembrano come rientrare in un clima di mode culturali assimilabili alla passione per la filosofia indiana o all'interesse per le scienze occulte. Riconosce comunque che invece dal punto di vista degli orientalisti e gli studiosi è stato fatto un grande cammino per emanciparsi dalla tradizione ostile al profeta verso una comprensione più vicina al dato della storia. L'autore riconosce che è importante che i credenti musulmani siano convinti che l'Islam può essere al loro fianco nel far fronte alle loro esigenze così come oggi le concepiscono. Quindi sente la necessità di un aggiornamento, ma rifiuta i facili concordismi e gli affrettati aggiornamenti che non fanno bene a nessuno. E in sintonia con l'atteggiamento sunnita, critica coloro che abbandonano il senso chiaro e manifesto dei testi per trovarvi misticismo, socialismo, capitalismo, scienza, e forse è significativo che il misticismo sia messo in testa a questa lista di cose. Quindi c'è una reazione al disordine attuale che è netta, ma non è però altrettanto netto e chiaro quale sia la direzione indicata in alternativa. Non si capisce bene quindi qual è l'intento dell'autore. Forse ci troviamo davanti all'ennesimo riproporsi di quel movimento detto Islah, riforma, che comunque all'atto pratico non sa proporre altro che la riforma come un ritorno alle origini. Ci sono stati dei casi clamorosi in questo senso, anche recentemente un autore egiziano contemporaneo, Khalid Muhammad Khalid, che negli anni 50 era su posizioni estremamente aperte, addirittura eccessive nella laicizzazione del pensiero, ultimamente è ritornato a riproporre le formulazioni più classiche della unità della sfera religiosa e di quella temporale. E forse significativamente tutto questo inversione di rotta in questo autore è stata annunciata da una serie di biografie che egli ha scritto dei principali personaggi dell'Islam delle origini. Quindi è estremamente ambiguo, ambivalente l'atteggiamento verso le origini, ed è difficile valutare qual è l'intenzione degli autori. Sicuramente la posizione di Hussein Ahmad Amin appare più articolata, complessa, soprattutto se analizziamo anche altre sue opere, specialmente quella che è stata pubblicata di recente insieme al libro di cui ci, in unico volume, insieme al libro di cui ci interessiamo, una opera molto interessante sull'applicazione della Sharia, Tatbiq al-Sharia al-Islamia, dove l'autore si preoccupa di vedere proprio come la legge sacra, la legge religiosa, sia stata il prodotto di un'evoluzione storica, non sia stata data a un momento come tutto compiuto. E entra quindi un concetto evolutivo nell'affrontare questi argomenti, e non possiamo certo rimproverare a un autore che è soprattutto un uomo di cultura e anche un politico, un diplomatico, di essersi attenuto essenzialmente, di aver dato il meglio di sé in queste opere di tipo di taglio sociale e giuridico piuttosto che a qualche cosa di più strettamente religioso. E quando si è avvicinato alla religione lo ha fatto affrontando la Sira, che se vogliamo la biografia del profeta è un'opera di contorno rispetto al testo rivelato. E credo che le cose ancora più interessanti dovranno essere dette, e invece specificamente su questo punto centrale, su questa rilettura critica e fondatrice del testo sacro stesso, che viene auspicata da alcune parti, tra cui da Muhammad Arkun, in una riflessione più vasta che può trovare ampi apporti anche di tradizioni religiose diverse sulle modalità dell'intervento della parola di Dio nella storia, delle quali la profezia è una delle manifestazioni privilegiate. Grazie. Grazie professor Branca, adesso prendiamo 10 minuti, un quarto d'ora di relax e poi torniamo per il padre Ferré, alcune comunicazioni e la discussione. Grazie.